Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Milioni di persone in tutto il mondo credono che in passato ci abbiano fatto visita degli esseri extraterrestri. Il rapporto Cometa afferma che gli UFO non sono di origine terrestre e che il problema ha implicazioni militari, tecnologiche, culturali e religiose. Era all'incirca mezzanotte e la gente telefonava in preda al panico. C'era un oggetto volante che fluttuava al di sopra degli alberi ed emanava un forte bagliore. Degli agenti di polizia sono andati a verificare e il primo ad accorrere sulla scena è stato il sergente Melaro. Vedo delle luci, è un enorme oggetto volante, sembrano delle luci rosse pulsanti. Per i testimoni è un oggetto blu-verdastro. Ci eravamo presi un impegno con i nostri ascoltatori che avevano risposto in maniera entusiastica a una precedente trasmissione sugli alieni e quindi oggi torniamo, come abbiamo detto, sull'argomento. Forse vorrei... è necessario che lo faccia, chiarire la mia posizione, visto che molti mi hanno scritto messaggi, ma dai, anche tu come Giacobbo, anche tu fai il sensazionalista, ma per me è totalmente indifferente. Ripeto quello che ho detto l'altra volta, ritengo che siano due fondamentalmente i grandi enigmi che al momento sembrano irrisolvibili. Per tutti gli altri c'è sempre un cammino della scienza di cui comunque vediamo l'inizio, è facile prevedere un punto di arrivo, le grandi malattie, le grandi piaghe di tipo sanitario, i problemi economici, le tecnologie destinate comunque a muoversi velocemente nello spazio, sono tutte fattispecie di cui bene o male non abbiamo difficoltà a immaginare una futura evoluzione, un futuro perfezionamento. Sono due le cose su quali in realtà entriamo nel dominio della favola, dell'immaginazione, della fantasia, se non della patologica credenza in qualcosa che appartiene al regno della superstizione. L'una è appunto il viaggio nel tempo. Pensiamo tutti che sia una cosa che va contro quelli che sono i limiti imposti dalla nostra natura, dalla nostra visione dell'esistenza. Noi siamo abituati ad avere un tempo lineare con un prima, un presente, un dopo, un presente caduco e fuggevole che nel momento stesso in cui lo definisci già appartiene al passato prossimo. E quindi il viaggio nel tempo. Immagino che la macchina del tempo sarebbe veramente una fantastica e incredibile invenzione, qualora fosse possibile averla. L'altra è quella di avere una presenza certificata, reale, accertata, oggettiva, diffusa, condivisa delle presenze aliene. Negli ultimi decenni se ne è molto parlato, esistono vere e proprie religioni che credono nel contatto possibile con altre entità che non appartengono alla stirpe umana, ma appartengono a stirpi precedenti o stirpe nate in altre realtà o nate in questo pianeta, poi emigrate, quindi che lo tengono d'occhio a distanza. O pensano che tutto ciò che è sempre stato attribuito al dominio della metafisica, della religione, in realtà appartenga alla percezione che hanno avuto uomini del passato di queste presenze, che umani non erano, ma comunque entravano in contatto con la nostra dimensione umana. Nell'ultima puntata abbiamo definito un'altra sottoteoria che poi gli alieni non venissero con dischi volanti da altri pianeti o da altre galassie, ma fossero in realtà sempre presenti in una realtà parallela rispetto a quello che vediamo. Si apre un'altra teoria fantastica, che esistano delle dimensioni che non sono semplicemente quelle che noi fisicamente possiamo vedere, perimetrare, conoscere, e in queste dimensioni, che esistenti ma non da noi percepite, possano esistere altri mondi, altre realtà, altre persone. Ogni tanto si aprono delle porte di comunicazione tra queste dimensioni. Beh, ho fatto un cappello rispetto a tutto quello che era stato già detto, adesso sta a voi continuare a raccontare quelli che sono i vostri avvistamenti, le vostre idee, la vostra esperienza concreta, senza pudore, senza reticenza, senza pensare di passare per matti. Questo è un luogo dell'intelletto, do questa definizione non privo di immodestia, in cui il pregiudizio glorioso è preso alla stessa stregua della realtà certificata. Quindi state tranquilli. 800240024. Abbiamo visto fotografie e video di UFO. Ora, forse, abbiamo prove più tangibili della loro esistenza. Si sente dire di continuo che non esistono prove, invece ce ne sono molte. In Pennsylvania c'è stata un'ondata di avvistamenti di UFO, uno dei quali sembrava rilasciare strani residui. Ha iniziato ad aprirsi a V e a far cadere dei residui metallici. In Polonia, dopo l'avvistamento di un UFO, si dice che siano rimaste sul posto alcune strane rocce luminescenti. L'oggetto è costituito da una lega di alluminio di origine sconosciuta. È un oggetto metallico che si presume sia stato espulso da un UFO. Luca, buongiorno. Buongiorno. Il suo racconto. Allora, io ho visto qualche mese fa, più o meno la primavera scorsa, una specie di palla luminosa vicino a Vigevano. Scendeva a una velocità che non era quella di una caduta, cioè non era un oggetto che stava cadendo. Andava più piano, ma non abbastanza lento da sembrare un aereo. Quindi era motorizzata nella sua percezione in qualche maniera? Sì, era strana, ma il bello è che poi dopo... cioè non era una palla che cascava per inerzia, come accade spesso alle nostre? Infatti, sì. All'inizio ho pensato fosse un meteorite, no? Cioè dice una specie di stella cadente, però era di dimensioni molto più grandi di una stella cadente, sembrava un piccolo sole, tanto per intenderci. E dove è andata a cadere? Intorno alla linea dell'orizzonte, si è persa dietro le case, gli alberi che c'erano, perché lì è campagna, stiamo parlando della Lomellina, Vigevano, no? Quindi è tutto campagna. È caduta abbastanza lontano, però il bello è che confrontandosi poi con amici su Facebook, anche loro mi hanno scritto: ma avete visto la palla luminosa? Sì, capito, cioè è stata una cosa strana. Diciamo, perché nel social network altre persone hanno avuto la sua stessa esperienza, quindi non è aveva esatto, bevuto sì, o ha avuto un'allucinazione. Ho avuto una suggestione, mi sono sbagliato, posso avere... Invece se anche altre persone... cioè nella stessa zona ma senza nessun contatto ti dicono che hanno visto la stessa cosa, comincia a pensare che possa essere vero, insomma, che non hai avuto le travecole. Grazie Luca. Claudio. Allora, io da Roma ho un'esperienza che si verificò nel 76 e poi scoprì, venne condivisa comunque da vari articoli usciti sui quotidiani, e mi piacerebbe che qualcun altro intervenisse su questo fenomeno che si verificò su tutta l'Italia, da nord verso sud, per intenderci da Toscana fino in Puglia. E io assistetti personalmente a questo fenomeno, che tuttora nessuno è riuscito a spiegarmi. Insieme a mio fratello mi trovavo a guardare le stelle su un prato. Dove esattamente? Roma. Roma Aurelia, Roma Ovest. Ecco, che prati Roma bisogna definire sì, bene. Sì, leggermente fuori, il 10° chilometro dell'Aurelia per intenderci. Quindi leggermente in campagna, era pomeriggio di primavera e guardavamo le stelle cadenti. A un certo punto una stella cadente, anziché scomparire... persiste. No, non soltanto persiste, ma ad angolo retto risale e ad angolo retto riscende e a zig zag percorre tutto l'orizzonte, questo da nord a sud. Questo fenomeno è la prima volta che lo racconto pubblicamente per radio, l'ho raccontato diverse volte, ma nessuno è mai riuscito comunque a spiegare a che cosa si riferisse questo effetto. E quanti eravate a vedere questo? Eravamo in due. Quindi io e mio fratello. Avete avuto la stessa percezione, poi diciamo un movimento che va a 90 gradi non è, esattamente. Non è un movimento di un mezzo che noi conosciamo. No. Non so. No, infatti mi piacerebbe che qualcun altro intervenisse su questo. Adesso questo sentiamo, no, io sì. Sto prendendo e sto verificando con interesse il fatto che questo è un argomento, io parlo di tante cose, ogni giorno cambio argomento, dopo 30 secondi che l'ho lanciato ho già i telefoni pieni di avvistamenti, quindi o c'è una follia collettiva che fa sì che ognuno abbia questa esperienza irraccontabile, indicibile dell'avvistamento alieno, o in realtà ci sono dei fenomeni a cui possiamo dare senz'altro una spiegazione o scientifica o razionale, ma di cui comunque si parla poco. Claudio, buongiorno. Silvio. Salve, buongiorno. Silvio. Giusto una notazione, come ha detto lei. Le porterò un'esperienza un po' diversa di un avvistamento, diciamo, che parlare di queste cose al pubblico, se non se ne ha esperienza, sempre si va del discredito. Comunque, no, ma io lo faccio semplicemente perché sono curioso, non perché sì. Abbia pregiudizi prenda per scemi. È un po' problematico perché, per esempio, per quello che è capitato a me, ho scoperto anche ad altri conoscenti o amici, ci è capitato di avere il cosiddetto missing time, è capitato di notte. Me lo spieghi, cioè che cosa succede? Allora, abbiamo iniziato dei vuoti di tempo di cui non sapete che avete fatto. Iniziamo ad andare a dormire con l'orologio. Adesso, onestamente, a me è successo anche stamattina che erano le 8 e ancora mi sono accorto che stavo a letto, però... No, è che l'orologio meccanico, automatico, l'orologio elettronico porta un orario diverso dell'orologio della cucina, quando nella sera stessa settato, cioè messo... Ma non può essere che quello della cucina abbia le batterie scariche e vada più piano? No. Io ho tutti gli orologi di casa sullo stesso orario. Trovarsi 3 ore di missing time è un poco problematico. C'è un orologio che è cambiato di 3 ore, quindi lei 3 ore del suo tempo... Non un orologio, più orologi, perché poi ho fatto la verifica in giorni seguenti con orologi elettronici da polso. Prima avevo un automatico, anche se di marca. L'ho messo elettronico per vedere se è capitato anche con l'elettronico per 3 volte. Cioè a casa sua sono scomparse 3 ore di tempo, ecco questo. No, a me sono scomparse perché l'orologio sul comodino porta lo stesso orario. Ma che ha fatto lei in queste 3 ore? Niente, io ho dormito, almeno io non ho nessun ricordo. E questa è la cosa che... A me succede tutte le volte che dormo però, che scompaia il tempo. Non lo so, perché mi spieghi meglio il missing time, così poi chiediamo agli esperti. Praticamente è tempo perduto rispetto alla relatività che... Ma io sono 50 anni che cerco il tempo perduto, quindi è una condizione esistenziale. Io non sono un esperto, però se si ha un'idea di ciò, anche di quello che si parla intorno, che cosa capita? Si dice che quando si ha un più o meno contatto con qualche entità, diciamo così, non terrestre, non umana, può capitare che... È come se stessero in un altro tempo rispetto al nostro. C'è una diversa equazione spazio-temporale. Sì. Quindi noi nel momento stesso che entriamo in contatto con un'altra equazione spazio-temporale è come se il nostro tempo si annullasse. Quindi noi perdiamo proprio 2-3 ore rispetto alla realtà, diciamo, che corrente, normale. La narrativa che racconta di queste cose, che poi uno torna nella Terra e vede il mondo che sono passati anche 50 anni. Abbiamo raccontato l'altra volta del matrimonio, la ragazza che si allontana da una festa di matrimonio in mezzo a un prato, quando torna indietro trova tutti vecchi e racconta di un matrimonio che è avvenuto 100 anni prima, ecco, una cosa del genere, nelle forme più esasperate. È questo? Non è proprio così eclatante, però è un po' inquietante quando nel momento stesso che nessuno ci pensa, poi capita per caso e si ripete più volte. E non c'è, non voglio dire sono uomo di scienza, però non c'è una spiegazione né reale né plausibile, in quanto la macchina orologio che ho al polso funziona perfettamente. Allora, fermiamoci un attimo. Umberto Visani, buongiorno. Buongiorno. Umberto Visani, autore del libro Mondo Alieno, UFO ed Extraterrestre nella Storia dell'Umanità, Aretusa Edizione. Abbiamo avuto come esperto la precedente puntata, è una persona che ha molto studiato il fenomeno, un ragazzo senza pregiudizi ma attento a tutte le testimonianze, a controllarle, analizzarle, confrontarle. Su questo missing time che dice il nostro ascoltatore, cosa sai di più? Missing time è un fenomeno che appunto già nell'antichità veniva riscontrato, nel senso che... Stai usando il viva voce, Visani? No, sentiamo. Voce. Sì, prego, vai. No, missing time è un fenomeno che già in passato veniva riportato in cronache medievali, nel senso che vi sono numerosi resoconti appunto di ingente quantità di tempo di cui non si sapeva dare conto, resoconti medievali, persone che tornavano settimane, mesi o addirittura anni dopo. In epoca moderna avviene in maniera leggermente differente, nel senso che le quantità di tempo di cui alcune persone non sanno dare conto è di quantità inferiore, si parla di ore, al massimo mezze giornate. Come il nostro ascoltatore, gli sono mancate 3 ore. Esatto. È un fenomeno che, di cui non si riesce a dare grande contezza, nel senso che le persone che entrano in contatto con entità extraterrestri o comunque con entità che percepiscono come strane al consesso umano riportano un trascorrere del tempo che è differente da quello comunemente inteso. Ma qualcuno ne ha scritto, ci sono state testimonianze più articolate di questa perdita di tempo, sensazione, perdita di tempo? Sì, soggetti che affermano di essere stati addotti da entità aliene e di cui si sono state fatte ricerche da parte di psichiatri psichiatri, da parte di ricercatori, riportano in maniera, come dire, tutta monolitica il fatto di avere delle perduranti perdite di tempo di cui non sanno dare spiegazione. È un fenomeno quindi ricercato anche negli Stati Uniti, di cui vi è molta letteratura in materia. Quindi la sensazione è quella che sia passato del tempo in cui noi non ci ricordiamo cosa abbiamo fatto, e non ci sono altri ricordi, diciamo, legati a questo tempo perduto. Si hanno ricordi confusi, si hanno ad esempio dei ricordi di avere osservato nel cielo degli oggetti volanti non identificati, si hanno vari ricordi di contatti con entità non umane. Successivamente, quando le persone si rivolgono ad esperti, a persone che con ipnosi regressive, emerge un quadro che è quello tipico dell'adduzione aliena, vale a dire il classico essere stati trasportati su un mezzo non umano, non terrestre, essere stati sottoposti a operazioni di tipo, come dire, invasivo medico. Sì, la solita terrificante sonda invasiva che gli alieni mettono sempre. Giuditta, buongiorno. Buongiorno. Giuditta. Pronto? Eccomi. Allora, buongiorno. Ecco, l'esperienza che volevo raccontare mi è stata raccontata da una mia amica, che è rimasta piuttosto colpita da questo, perché le era successo di aver preso un po' di fumo, di hashish, così. Sì, si era fatta un cannone. Che non era abituata. Beh, voi sento dal tono della sua voce, siete signore per bene, non fate queste cose. No, eravamo ragazze. Erate meno per bene al tempo. Ecco, e niente, è successo così che ha preso questa cosa. Questa cosa cosa? Un po' a tavola. Questa cosa cosa, Giuditta? Ma non me l'ha detto, però ha detto una cosa blanda, tipo uno spinello, si chiamavano così una volta. Sì, nei felici anni 70, prego. Ecco, sì. E niente, è successo che dopo è andata a tavola, sembrava che non avesse fatto nessun effetto. Poi nel tempo invece ha preso una cucchiaiata di cibo, in quel momento lì è andata come via e si è ritrovata in un giardino con dei bellissimi alberi, con suo padre che era morto da poco tempo. Ma forse si era fatta anche un po' d'acido insieme alla canna? No, assolutamente. E così hanno parlato, e la cosa strana è che è intervenuto un personaggio che le raccontava che i viaggi nel tempo si dovranno fare solo chimicamente, cioè che il vero motore non è meccanico come nel Ritorno al Futuro, quelle robe lì, è soltanto chimico, cioè si entra in un altro mondo chimicamente. Vabbè, ma tutti i fattoni della storia sanno che comunque se uno gli dà sotto di brutto con sostanze psicotrope vede di tutto, va di tutto, fa viaggi, sì, fantastici, e che quando torna... È una cosa che voglio terminare. Comunque la sua amica poi ha avuto una vita normale, tranquilla. Sì. Però la cosa strana è che quando lei, secondo lei, è stata in questo luogo con queste persone morte, a lei care, e quando pensò 3 ore, poi improvvisamente è finito tutto e lei stava ancora raccogliendo col cucchiaio il cibo. Nel frattempo nessuna spada di fuoco o altre visioni? Niente, è una cosa così, poi non si è mai più ripetuto, però lei me l'ha raccontato come una cosa molto molto forte, molto... Quanti anni ha la sua amica oggi? La mia amica ne avrà una 50. Questa quindi è una cosa che avrà fatto 30 anni fa? Sì, probabilmente sì. Lo so, erano anni molto acidi. Grazie Giuditta, Massimo. Ciao, sono Massimo, telefono da Milano. A me è successo 10 anni fa in provincia di Varese, lavoravo in una ditta, facevo l'operaio, sono uscito fuori nel mese di luglio a fumare una sigaretta e a un certo punto ho visto all'altezza di 30 metri sopra delle case in fondo un oggetto che mi sembrava un aereo da modellismo, ma era quasi uno stealth, nero, con delle punte strane. Ho detto, caspita, chissà quanti soldi deve aver speso questo qua. Ho chiamato il mio collega per vederlo, è uscito fuori anche il mio collega, questo oggetto ha cominciato a librare vicino a noi e poi è schizzato via. Più o meno che dimensioni aveva? Dimensioni di una 500. Ah, quindi era un super modellino. Nero, ma era nero, lucido come uno stealth. Sembrava molto uno stealth, ma era molto più a punta, molto più affusolato. Ed è schizzato via. C'era la smart degli alieni, praticamente. Ma non lo so, ci siamo guardati con mio collega, nessuno di due ha detto niente. E ne abbiamo parlato il giorno dopo, perché ho avuto come un rifiuto della realtà. Ho detto, ho cercato di spiegarmi che cosa potesse essere, però non trovavo nel mio inventario in testa un qualcosa che di applicabile a quello che avevo visto. Umberto Visani, queste due ultime telefonate. Allora, l'uscita dalla realtà con sostanze psicotrope mi sembra che può far vedere di tutto, poco forse a che fare con la nostra realtà, però vediamo su questo. Su questo oggetto che ha descritto, questa sorta di aeromodello gigante, ci sono analoghe descrizioni in quello che tu hai letto? Forte ondata negli anni 90 in Belgio di oggetti di forma triangolare molto simili all'aurora, nel senso un classico oggetto di colore scuro, Singstelt F117A, è un'ondata tuttavia che ebbe luogo appunto negli anni 90 in Belgio e la cui origine molto probabilmente è di stampo terrestre, nel senso si trattava di un... Di prototipi sperimentali, certo. Esatto. Beh, poi i droni sono diventati una realtà, quindi probabilmente stanno sperimentando qualcosa del genere. Assolutamente, però pensando, come dire, alle superpotenze in grado di effettuare mezzi così avanzati, ho seri dubbi che possano venire sperimentati nel centro di Milano, per cui potrebbe trattarsi di un oggetto di tipo differente, ma difficilmente un prototipo viene sperimentato in un centro città. E la ragazza di buona famiglia che sarà fatta una volta nella vita una canna e ha avuto questo messaggio, rientra nelle normali alterazioni della realtà quando uno si fa? Ma occorrerebbe vedere che tipo di sostanza avesse assunto, nel senso che esiste una sostanza che si chiama dimetiltriptamina che, come è stato studiato dall'Università del New Mexico, può mettere in contatto con mondi estranei al nostro, nel senso che una sostanza... Ma è la sostanza del peyote, quella che usano gli sciamani centroamericani per entrare in contatto con le loro entità? Esatto, sì, perché è una sostanza che praticamente apre le porte della percezione, ma non nel senso che causa allucinazioni, ma consente di connettersi su piani del reale differenti dal nostro, a differenza di altre sostanze che operano su un piano differente, diciamo abbassa le nostre barriere di pregiudizio, ci fa vedere cose che comunque ci sarebbero comunque ma normalmente non vediamo. Mi scrive un ascoltatore, dice: Gianluca, fai una puntata non sugli avvistamenti ma sugli incontri ravvicinati, vediamo cosa viene fuori. Ma è questa la puntata, si può parlare di tutto ciò che riguarda realtà aliene rispetto a quello che noi oggettivamente intendiamo la realtà percepibile. Gennaro. Gianluca, buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Allora, il mio è un episodio non strano, oserei dire di più, che probabilmente c'entra anche poco con alieni o cose del genere. Sarei curioso di sapere l'esperta cosa mi potrebbe rispondere. Esperto, a quello che sto sì. per raccontare. Noi ci trovavamo in vacanza in una casa in Abruzzo, eravamo una quindicina di ragazzi, amici, ragazze, insomma, stavamo festeggiando un evento, ora nemmeno ricordo. Siamo andati, abbiamo festeggiato, abbiamo mangiato e tutto, siamo andati tutti a dormire. Praticamente siamo stati svegliati in piena notte perché si erano aperti tutti i rubinetti. E quando parlo di rubinetti, Gianluca, parlo di rubinetti, quindi la vasca, il lavandino, lo scarico. Si era movimentata tutta la potenza di acqua della casa, addirittura i lavatori... Postiti una cosa, Gennaro, molte volte accade, anche io avevo una casa in Abruzzo, quando il terremoto mi impedisse di andarci... Sì. Che spesso le volte nei momenti di maggiore affluenza dei turisti tolgono l'acqua, quindi uno va a aprire tutti i rubinetti ma l'acqua non viene, li lascia aperti, di notte ridanno l'acqua e improvvisamente l'acqua dai rubinetti esce. Ti do una spiegazione banale, non però lo so. Quando il rubinetto è chiuso, ci spiegava proprio l'esperto lì della zona, dice, è un evento che non è successo in nessun altro caso. Da solo non si apre, certo. Effettivamente da solo non si apriva, insomma, questo è stato l'episodio che ci ha visto protagonista. E perché l'associa, diciamo, agli alieni, secondo lei? No, l'associo a episodi un po' strani, perché è un episodio che non mi è stata data spiegazione, sono passati 30 anni. Non può essere uno di voi si è alzato prima degli altri, aperti i rubinetti e poi va fatto uno scherzo? Non poteva farlo perché contemporaneamente il flusso dell'acqua, poi aperti i rubinetti di acqua calda e fredda, poi c'erano dei rubinetti nei giardini che erano inavvicinabili e irraggiungibili. episodio di una stranezza unica che non gli è stata data nessuna spiegazione. Umberto Visani sembra più l'area poltergeist e presenze fantasmatiche, ma hai qualcosa nel tuo repertorio che assomiglia a questa apertura dei rubinetti? Riporta spesso un'associazione tra fenomeni di poltergeist e fenomeni più classici di UFO, nel senso che è come se i due fenomeni, sembrando distinti nelle loro manifestazioni più intrinseche, presentassero in realtà una comunanza apparente, nel senso che quando appaiono fenomeni UFO, al tempo stesso vi è tutta una fenomenologia di stampo poltergeist, per cui rubinetti che si aprono, oggetti che si muovono per la casa, le luci che si accendono e si spengono. Esatto, quindi come se i due fenomeni avessero una sorta di apparizione in contemporanea in certi casi. Diciamo, c'è un'interferenza nel piano fisico abituale in cui possono succedere cose che giudichiamo singolari. Benvenuti a Segreti e Bugie, sono Richard Syrett. Persone di ogni etnia, credo, religione, classe sociale, sostengono di essere state portate su un'astronave contro la loro volontà. Sono state immobilizzate, incapaci di parlare e reagire. In alcuni casi sostengono di essere state sottoposte a esperimenti raccapriccianti da esseri bizzarri con arti abnormi e dai grandi occhi neri. Esseri che sembrano indifferenti alle loro sofferenze. Le vittime dicono di essere state riportate nel luogo dove sono state prelevate e qui lasciate, segnate a vita nel fisico e nella mente. Spesso non hanno ricordi di queste esperienze traumatiche che riescono a ricordare anni dopo grazie all'ipnosi. In questa puntata di Segreti e Bugie faremo un'indagine sul fenomeno dei rapimenti. 800 24 00 24, stamattina lasciamo liberamente parlare tutti quelli che magari nella vita non hanno mai avuto il coraggio di dirlo, che hanno avuto l'impressione di aver avuto a che fare con fenomeni paranormali legati appunto a mondi paralleli, a esseri che non appartengono alla nostra stirpe umana. Mi scrive un ascoltatore: Nick, sei il solito furbone con un seguito enorme di coglioni. Gli unici alieni fra noi si chiamano Mario e Silvio. Ridi, ridi, prima o poi ti cacceranno, spero. Beh, non vedo che siano tanto alieni le persone che lei cita, perché trovo molti tratti comuni con la sua incapacità di astrazione, di fantasia, di ascoltare anche dei punti di vista che non siano i propri. Luigi, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì. Luigi. Io vorrei raccontare due fatti velocissimi della mia vita. Nel 1963 era morto mio padre in agosto, passato un 3 mesi, alle 3 di notte, esattamente l'ora di morte di mio papà, ha suonato una sveglia di quelle meccaniche, quella prima notte suona alle 3, la seconda notte è risuonata alle 3 e la terza volta è suonata alle 3. Allora, io da quella situazione... Aveva la suoneria messa alle 3, probabilmente. Sì, meccanica, proprio suoneria meccanica, ossia i vecchi orologi, quelli che non potevano spostarsi l'ora, non è come l'elettronica. Era stata messa alle 3, suonava alle 3. Sì, e da quella volta io penso ho cambiato casa, perché mi era rimasto talmente impressionato di questo fatto che... Ma se lei la spostava alle 7, suonava alle 7? La suoneria? No, io suonava, il mio sveglia suonava alle 6:30. E invece questa suonava alle 3? Mi ha suonato per 3 volte alle 3 e da una volta io ho cambiato casa. E può sembrare strano, ma allora ero giovane, avevo 26 anni, perciò sotto certi aspetti ero impressionato. Invece quello che io ho chiamato è questo. Circa 3 mesi fa ero andato in un negozio a Milano a comprarmi un cappellino, sa quelli alla russa che scendono sulle orecchie. E quelli alla Putin, sì. Sì, ecco, bravo. Stavo scendendo da una scala e in fondo a questa scala c'è uno specchio. Arrivo davanti a questo specchio, a un certo punto mi sono visto riflesso sul lato destro. Intorno a me c'era una nebbia, proprio non riuscivo più a capire cosa mi stava succedendo. La figura che io vedevo di me stesso rideva come un matto, ma io non ridevo. Ed ero diverso, avevo io la barba e non avevo la barba. Poi, quindi una vera e propria allucinazione. Ecco sì, però mi vedevo riflesso, no? A un certo punto allora sono sceso, poi sono riuscito a scendere, il giorno dopo ho voluto tornare lì, dico ma forse c'è uno specchio piegato, sai che se c'è uno specchio curvo lei sì, si vede deformato. Invece lo specchio è dritto, mi sono visto dritto, perciò di conseguenza ho avuto un sdoppiamento della personalità, visto che lì ci sei un esperto. Una spiegazione, perché da allora... Ecco, solo per tranquillità nostra, lei non aveva fatto uso di sostanze, alcol? No, io non fumo, non bevo, ho 76 anni. Quindi era sobrio, era perfettamente sobrio. Benissimo, adesso di questo prenderemo atto. Sandra, buongiorno. Il 6 ottobre, no, è successo il 6 aprile. Era il 6 aprile. Vabbè, Salda, non è importante adesso. Io invece il 6 ottobre alle 2:30, che l'orario era alle 2:30. Ma con chi sta parlando, Sandra? E mezza il terremoto, 2:24, alle 2:24, lo ricordi? Ah, sta parlando, interessante. La notte. Un occhio sconosciuto, un orecchio sconosciuto a casa di Sandra. Ecco, le 3:32. Sta passando. Siccome io me l'ero segnato, poi adesso per l'attenzione che mi hanno chiamato, mi sono scordata. Erano appunto le 3. Chissà con chi parla, Sandra. Proprio perché l'ho detto a tutti. Alle 3:32 del 6 ottobre. Era il 6 ottobre. Sandra. Ottobre, io mi sono alzata verso le 3 di notte e ho visto questa fascia. Facciamola di luce che arrivava dalla finestra nostra della camera da letto mia e veniva verso la finestra mia un serpentone di questa luce ruotante gialla. Interessante. Poi ho detto, oddio, che è sta cosa? Ma poi entra nella finestra. Chiuda la radio però, questo, Sandra. E questo? Pronto? No, chiuda la radio, Sandra. Sì. Dunque, allora, questo serpentone giallo rotante? Questo serpentone, io l'ho visto. A chi lo stava raccontando adesso? No, lo stavo dicendo a mia sorella. Ah, sì. Questo serpentone l'ho visto alle 3:32 del 6 ottobre del 2008, 6 mesi prima che successe il terremoto all'Aquila. E io questo serpentone che mi veniva verso la finestra, abbastanza lungo, ruotante... Quanto era lungo, più o meno? Quanto era almeno lungo? 2 metri. 2 metri. E questa cosa, dico, oddio, adesso entra nella finestra. Ma era tipo, invece, tipo, poi troppo, è salito. Tipo una biscia grossa. Esatto, però ruotante e luminoso, giallo. È andato su in alto e non l'ho visto più. Ma c'aveva la faccia da serpente proprio? No, no, era proprio un ruotante, un serpentone ruotante ma senza faccia. Era tutto, come si dice, come un'ellisse, no? Che gira e gira intorno, lungo però. Ah, come diciamo quei botti di Capodanno che fanno la luce? Oddio, proprio botti no, perché io non ho mai silenzioso. Visto. Non l'ho visto, no, era silenzioso senz'altro, perché io ho aperto... E quanto era grosso più o meno? Era grosso, diciamo, non posso dirlo esattamente, però era... In palmi, su. Come una palla ruotante, però lunga, cioè... io dico un serpentone perché era una fascia ruotante lunga. Molto luminoso. Sì, molto luminoso, aveva un giallo intenso, luminoso. E l'ha raccontato a qualcuno questa cosa? Io ho provato a chiamare anche l'osservatorio qui di Roma, che sono di Roma, e purtroppo non mi ha risposto nessuno, ho lasciato un messaggio. Ma che altezza era, diciamo? All'altezza io sto al 6° piano, quindi... Ma da Roma, lei l'ha visto a Roma? Io a Roma, sì, a Monteverde Vecchio. Ah, beh, quartiere Monteverde Vecchio. Sì. Monteverde Vecchio. Vabbè, se qualcun altro ha avuto visioni di serpentoni rotanti a Monteverde Vecchio 6 mesi prima del terremoto, vediamo. Sandra ha raccontato la sua esperienza. Lei era con sua sorella o era sola? No, io ero sola perché di solito io la notte, diciamo, verso quell'ora, anche prima, mi sveglio e mi sono andata ad aprire la allora, completiamo la sua visione. Lei ha visto il serpentone. Gianluca, cosa ha visto invece? Ah, buongiorno. No, io... Ho visto anni fa, circa 8 anni fa, una sfera di luce proprio davanti. Sfere luminose. Una sfera luminosa, sì. Poi in televisione senti dire che potevano essere delle... E dove l'ha vista la sfera? Dove l'ha vista? Guarda, io sto a Porto Santo Stefano, Montargentario, era proprio davanti alla costa maremmana. Sullo sfondo si vedeva bene il Montagnata, era un tramonto, era verso le 5 d'inverno, quindi il sole stava tramontando. E c'era questa sfera proprio in alto che ha iniziato, che si muoveva con un certo tipo di movimento che secondo me una lanterna luminosa quel tipo di movimento a quella quota non poteva avere. Però io volevo intervenire anche per dire che se questi esseri sono tecnologicamente più evoluti di noi, molto probabilmente avranno anche una tecnologia che gli permetta anche di non essere visti. Ma certo, se hanno degli scopi per farsi vedere, è il vero dilemma, perché da 30-40 anni, se non 50, si parla di alieni e finora non c'è stata mai un'ufficiale entrata nella nostra storia di queste persone, ammesso che esistano. Lo dico anche perché perché la persona continua a scrivere, perché dice con tanti argomenti deve parlare sempre di queste cazzate. Non è sempre, ne parlo oggi. Esiste un non detto nell'anima di tante persone rispetto a queste visioni, a questi fenomeni che non si spiegano, e questa mattina glielo lascio raccontare tranquillamente, non credo che sia tempo perso, piuttosto che le lucubrazioni di quelli che pensano di avere in tasca la formula per la risoluzione immediata di tutti i problemi dell'umanità. Faccio parlare le persone di quello che non hanno avuto mai il coraggio di raccontare. Credo molto probabile che ci siano altri pianeti come la Terra, perché il Sole è una stella comunissima fra 400 miliardi di altre stelle che popolano la nostra Via Lattea, e forse tutte o comunque buona parte di esse hanno dei pianeti. Oggi stiamo scoprendo che ci sono miliardi e miliardi di pianeti nell'universo, fra questi ci saranno anche dei pianeti adatti a ospitare la vita, e allora non c'è nessuna ragione perché quello che è successo sulla Terra non succeda, non sia successo o non succederà su altri pianeti. Questa quindi è Margherita Hack, per gli ascoltatori che dicono parliamo soltanto di cazzate. La differenza fra trattare in maniera cazzona un argomento, trattarla in maniera curiosa, è esattamente questo: abbassarsi dal pregiudizio, ma allo stesso tempo avere piena gloria di ogni proprio pregiudizio. Vi do un'ulteriore dimostrazione di quello che sto dicendo. Roberto Volterri, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, Roberto Volterri è laureato in archeologia, lavora all'Università di Tor Vergata, si occupa di archeometallurgia mediante appunto delle tecniche di indagine come la microscopia elettronica a scansione, la SEM, o microanalisi e dispersione di energia, EDS. Quindi è un ciarlatano, uno scrittore di fantasie, ma è una persona che si applica. Ha scritto un libro, Narrano antiche cronache, edizioni Acacia. Ha una teoria che in alcune classiche importanti, note o più o meno note, rappresentazioni pittoriche degli ultimi secoli, esistono già l'idea, la rappresentazione iconografica di qualcosa che anche al tempo non sapevano spiegare, ma rappresentavano. È così, Volterri? Sì, esattamente così. Più che occuparmi di ufologia di stretta osservanza, quella nata il 24 giugno del 1947 con le osservazioni che fece Kenneth Arnold, e da lì è nato poi il termine disco volante, in origine piatto volante, io mi sono interessato di testimonianze del passato, cioè di in tempi non sospetti, quando non c'era la fotografia, quindi non si potevano truccare delle foto, delle immagini, quando non c'era il computer, non c'era Photoshop con cui si può fare di tutto e anche di più. Quindi mi sono rivolto a testimonianze nell'ambito della storia dell'arte, dell'archeologia o altro, e tra le testimonianze nell'ambito della storia dell'arte, per esempio, ci sono alcuni dipinti, io gliene posso elencare tre, ma ce ne sono tantissimi, ho fatto anzi una sorta di mia graduatoria, dove ci sono delle raffigurazioni molto particolari. E ci faccio un esempio. Le faccio un esempio. Allora, a Palazzo Vecchio, a Firenze, non agli Uffizi, a Palazzo Vecchio, al loggiato di Saturno, sala di Ercole, c'è un tondo, un dipinto che risale alla metà del XV secolo, attribuito inizialmente alla scuola Filippino Lippi, poi al ghirlandaio, mi pare ultimamente c'è scritto solo maestro della metà del XV secolo, noto a tutti come la Madonna e San Giovannino, la classica raffigurazione di carattere religioso. Ma quella che chiamano anche la Madonna degli UFO qualcuno. La Madonna degli UFO, esattamente. Allora c'è la Madonna, c'è Giovanni Battista bambino, Gesù bambino, e poi sulla destra c'è qualche cosa di particolare. Cioè in alto si vede un oggetto a forma discoidale da cui escono pure dei raggi, come dire, luminosi, e in basso ci sono tre osservatori. Allora, due osservatori sono umani, nel senso che sono due pastori, uno si copre gli occhi, in piedi si copre gli occhi perché l'oggetto evidentemente è molto luminoso, poi ce n'è un altro che si vede con una certa difficoltà, io proprio nel libro Narrano antiche cronache l'ho messo in evidenza con tecniche di analisi di immagini come Photoshop o cose anche più semplici. Quindi l'ha analizzato con tutti gli strumenti scientifici, esatto, che fanno parte del suo lavoro. Anche. Ma il terzo osservatore, dicevo ci sono tre osservatori, è un cane che abbaia, si vede chiaramente nel dipinto, in direzione di questo oggetto. Ora, un cane non si fa, come dire, impressionare da entità astratte, abbaia un qualche cosa di concreto. Ecco, però dicono gli scettici che è una citazione di un evento descritto da un Vangelo apocrifo, una famosa nube luminosa che sarebbe apparsa in quel tempo, quindi fa parte, diciamo, dell'iconografia sacra, anche se non proprio perfettamente ortodossa, riportata dall'autore di questo quadro. Fa parte dell'iconografia classica, se ne trovano altre, ma non come questa. Questa è molto particolare, cioè l'oggetto ha proprio forma lenticolare. forma lenticolare che, se vogliamo, troviamo in un altro dipinto, conservato a Napoli, al Museo di Capodimonte, e di Masolino da Panicale, che l'ha dipinto a metà del XV secolo. Gran parte di questi dipinti sono tutti tra il XV e il XVI secolo. E ricorda un evento, io sono romano, un evento avvenuto a metà del IV secolo sul Colle Esquilino, la famosa nevicata del 5 agosto. Ora, io non ho mai visto nevicare ad agosto, ho visto solo 3 o 4 nevicate a Roma. E poi quella strana nevicata, il dipinto di Masolino da Panicale, gli ascoltatori possono andare in internet, digitare solo Masolino da Panicale, il miracolo della neve, e trovano questa raffigurazione. Allora, quando nevica, nevica da un cielo compatto, bianco, mentre lì si vedono proprio degli oggetti, se vogliamo, di forma discoidale, in formazione, ma soprattutto l'ultimo, quello sulla destra, vicino a un edificio, io ho davanti a me l'immagine, ha proprio la classica forma del disco volante. E da questi oggetti, ripeto, cadono dei fiocchi di neve, e in basso si vede Papa Liberio che traccia su questa coltre di neve, che, ripeto, sarebbe caduta solo sul Colle Esquilino, dove adesso c'è la Basilica di Santa Maria Maggiore, fatta edificare proprio in ricordo del... Diciamo che è un fenomeno di cui ci sono prove testimoniali, nel senso che è difficile pensare non sia avvenuto, visto che non sono anni così remoti, sì, in cui le cronache c'erano, tracce ci sono. C'erano, e Masolino Panicale ha dipinto questo, sta appunto al Museo di Capodimonte, riferendosi a delle testimonianze di Fra Bartolomeo da Trento, che aveva scritto nel 1244, cioè ci sono 900 anni di differenza tra quando è accaduto l'evento e quando è stato raffigurato. Lei che idea si è fatta? Io mi sono fatto un'idea riferendomi a episodi molto più recenti, cioè mi pare che sia nel 1954 a Firenze, mentre c'era una partita di calcio Fiorentina-Pistoiese, la partita fu fermata dall'arbitro perché in cielo si vedevano evoluire degli strani oggetti, dei dischi, e da questi dischi è caduta una sostanza bianca, esattamente come quella che poi, se vogliamo, viene intesa come neve, raffigurata nel dipinto di Masolino da Panicale. Uno studente di ingegneria ebbe la prontezza e i riflessi di prendere una piccola parte, di portarla all'università, parliamo del 1954, quindi in tempi recenti, in cui analisi chimiche si potevano fare. È un anno fantastico, nascevo io. Sì, io ero nato 7 anni prima. E questa sostanza bianca è stata analizzata e contiene calcio, boro, magnesio e silicio, infatti viene chiamata anche capelli d'angelo, bombaggia silicea. Quindi, ma cosa sarebbe, diciamo, in natura questa sostanza dove si trova? In natura non si trova da nessuna parte. È un composto chimico? È un composto chimico, si trovano altre sostanze. Ma per cosa si usa? Che scopo no, ha? No, non si usa affatto. Cioè è una sostanza che sublima, passa dallo stato solido allo stato gassoso in tempi brevi, non passa per lo stato liquido. Quindi come se fosse un residuo di gas di scarico. Un residuo di qualche cosa. Di un processo dinamico che fa muovere queste... Fermiamoci un secondo. Prego. Umberto Visani, ricordo perché me lo chiedono gli ascoltatori, autore del libro Mondo Alieno, UFO Extraterrestre nella sola umanità, a Retusa Edizioni. Ecco, vediamo se puoi in qualche maniera integrare quello che ha detto Roberto Voltaire su questa sostanza misteriosa della nevicata a Roma alla partita del 54. Beh, un fenomeno che è stato assolutamente certificato, quello del 54, nel senso che tutto lo stadio, il pubblico era presente, per cui un evento assolutamente accaduto. E altresì, cioè, è negabile l'episodio del 54, è difficile pensare che sia un'illusione collettiva in un campo da calcio. Assolutamente, visto dai giocatori, dal pubblico, dall'arbitro, proprio un fenomeno che effettivamente è avvenuto con tanto di passaggio di oggetto volante in cielo. Quindi non è che stiamo proprio parlando di visioni di pochi elementi che potrebbero essere accusati di follia o di loro particolari deviazioni mentali, questo è un fatto che collettivamente è certificato, oggettivo. Molto, molto rilevante e di peso all'interno delle varie... E su questa sostanza cosa puoi dirmi? Beh, la sostanza negli anni 50 e 60, durante vari avvistamenti, venne vista cadere dal cielo in contemporanea con il passaggio di oggetti non identificati, e si è parlato come una sorta di sottoprodotto di scarico del meccanismo di alimentazione di questi oggetti. E va però notato che effettivamente dopo quegli anni, per cui già a partire dai 70-80, il fenomeno di caduta a terra di bombaggia silicea o capelli d'angelo, come viene chiamata, è stato sempre meno osservato, fino quasi a scomparire. Per cui è una sorta di acme in quegli anni, per poi andare a scemare. Forse si è evoluta anche la loro tecnologia, e dopo 500 anni hanno cambiato tipo di motore e di combustibile. È una possibilità, certo. Sentiamo Adriano. Adriano. Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Io niente, ho visto 2 anni fa ad Asti, ero a un cinema all'aperto d'estate, no? E niente, oltre a guardare il film, guardavo anche a quelle classiche serate estive dove ci sono sì. i lampi e tutto. E niente, è apparsa una cosiddetta, una specie di flottiglia di oggetti luminosi, no? In quanti l'avete vista? Allora, l'ho vista io e poi gliel'ho fatta vedere alla mia fidanzata che era seduta vicino a me, perché la gente giustamente guardava il film. Quindi vi siete accorti soltanto due, va bene. Però quando sono passati questi oggetti sopra, la produzione, diciamo, la proiezione del film si è interrotta per qualche... Hanno interrotto il film. Fermo un attimo, Manuele, velocemente, un minuto. Sì, volevo dire che queste non sono cazzate, perché tra l'altro ne ha parlato recentemente anche Medvedev, che ha svelato appunto che gli alieni sono fra noi da tanto tempo. Parli della sua esperienza, parli della sua esperienza. Sì, io ho subito una specie di rapimento, abduction, come si dice nella terminologia del settore, 2 anni fa, che sono stato prelevato dalla camera da letto e mi sono ritrovato in una sorta di astronave laboratorio, dove poi mi hanno effettuato degli esperimenti, tipo prendermi il torace, inserendo qualcosa. Io, ma lei provava dolore, provava sensazioni sgradevoli? La mattina dopo, svegliato, avevo strane sensazioni, strane emozioni, strani ricordi, strani flash mentali, e poi vedendomi allo specchio ho riscontrato effettivamente che avevo un segno strano nello sterno, nel torace, e allora ho trovato anche la finestra aperta, diciamo, ero tutto un po' sconvolto. Ma non si è fatto un TAC per vedere cosa c'aveva dentro, no? No, diciamo, mi hanno suggerito di fare una radiografia, però ho preferito... Non ho avuto poi modo di farla. Ecco. E la sua vita è cambiata da allora o è rimasta dentro? È molto cambiata sicuramente. Diciamo, sono cose che avvengono, non sono solo. Suggerisco di guardare il film 6 giorni sulla Terra, studiare le ricerche di Corrado Malanga o vedere il film Si vivono di Carpenter, perché raccontano la verità sotto un profilo magari... Beh, lei ha avuto un'esperienza personale, quindi sì. A modo... No, la cosa che mi sorprende è che non ha avuto... volontari, io mi sarei subito fatto una radiografia per vedere cosa c'avevo dentro. Non è venuta questa idea di poter, con gli strumenti che ha la nostra limitatissima scienza, vedere cos'altro potesse essere successo a lei rispetto a questa impressione. Beh, la trasmissione è finita. Come vedo, vi siete molto appassionati. Ci sentiamo domani.